obiettivo è mandare in merda la vostra trasmissione, voi cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri, mandate in merda voi, io sono più bravo di voi, vi mangio vivo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, caro Davide, probabilmente non c'entra assolutamente nulla, perché poi parli. Inizio settimana. Non mi fare queste cose. Buon inizio di settimana, che ti vorrei strozzare, ammazzare. Sai che non sopporto queste robe qui. Apposta per questo va fatto. Ma non sopporto questa roba qui. Comunque, parleremo di barconi, parleremo di immigrazione, certo, di questa roba qua. No, 700 morti. Sì, 700 no, morti. No, 700. Inevitabile. Neanche il leghista. No, ma che c'entra? Io ripeto le stesse cose che ho sempre detto da quando è ricominciata una tragedia epocale. Ma questo è chiaro che è una tragedia. Ora bisogna solo pensare a questi morti. No, ma stai zitto e un attimo. E come sono stati stipati dentro un barcone. Vuoi stare zitto un attimo? No, tu devi spiegare che cosa è successo. Li hanno messi i mercanti di morte dentro la nave. Li hanno messi dentro. Ma lo sappiamo. Dove li hanno stipati? Perché sono morti? Qual è la barbarie di questa roba? Hai detto barbarie, tragedia. Le parole. Come è successa? Allora, come sono io morti? Ripeto quello che ho sempre soffocati detto. Soffocati dentro Benissimo. La nave, schiacciati, va bene, non potevano d'accordo. Uscire come dei topi. Va bene, d'accordo. Questo è successo. Se tu parti. Ma... Aspetta, fermo. Se tu parti, sai che puoi morire, punto. Ma poi è una cosa, è una tragica, tragedia. È tragico per questo, perché gli dà già questo il livello dell'umanità e della disperazione di queste persone. Vabbè, ma dopo che hai detto umanità, disperazione, tragedia, che hai risolto? Niente, Borghezio. Ma ho risolto, e come? Fammi intanto sentire Marione, non faccio lo sciacallo come alcuni politici. Fammi sentire Marione, dai. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Beh, molti ci ripensano su questo, molti, devo dire la verità, molti ci ripensano, ti assicuro, molti a sinistra pensano che Gheddafi era un muro nei confronti, poi ovviamente un rubinetto che si apriva e si spegneva quando voleva lui, però comunque almeno c'avevi un signore con cui trattare, vabbè. Che vogliamo dire di alcuni simpatici signori che su Twitter a proposito di questa tragedia hanno scritto delle cose che definisco orribili, terribili. Meno male. Ma è chiaro, ma io scusami, meno pazienza, male. Si può definire. No, meno male che ogni tanto ti viene il raccapriccio anche a te, perché senti, sembra che tu digerisca tutto. La realtà è che noi, la maggior parte delle persone che vivono e lavorano in Italia, hanno guardato le immagini in televisione e poi sono tornati tranquillamente a fare la loro spa, il loro massaggio. È così. Allora, una signora che io vorrei fare un appello agli ascoltatori. Dovreste trovarmi il telefono di questa signora. Eleonora Bragagnolo, Vicenza, appuntatevi bene questa cosa. Eleonora Bragagnolo, Vicenza, è una pensionata vicentina, una pensionata vicentina, dunque faccio appello a tutti i nostri ascoltatori in Veneto, eccetera, di procurarsi e trasmetterci il numero di telefono di questa Eleonora Bragagnolo, la quale su Twitter ha scritto: non ci credo alla notizia della morte delle 700 persone, non ci credo, troppo bello per essere vero. C'è un altro signore invece di cui non farò il nome, perché poi ve lo spiegherò, il quale ha scritto queste parole: buon appetito a tutti i pesci che si cibano di chi toglierebbe il cibo a noi italiani. Insomma, buon appetito ai pesci che si mangiano i morti che sono cascati sul Mediterraneo. Siamo ad alti livelli qua, eh? Salvini, denominato lo sciacallo in questa occasione da Renzi, da una buona parte della politica italiana. E non si capisce perché, se uno esprime un'idea forte politicamente dicendo che fino adesso chi non ha fermato l'immigrazione, dunque le morti, le stragi, eccetera, eccetera, hanno le mani grondanti di sangue, mani grondanti di sangue, è certamente un'espressione forte, sia per forza da definire uno sciacallo. È uno che fa politica dicendo che bisogna adottare un'altra politica. Sono i politici italiani che dovrebbero difendere gli Mattarella, Renzi, Alfano e la Boldrini. Quindi sono questi che hanno la mano sporca di sangue, la camicia sporca di sangue e la cravatta sporca di sangue. Ci si mette anche la Chiesa, la Chiesa con il Cardinal Poletto. Cardinal Poletto che critica Salvini, questo è successo credo sabato, se non sbaglio. No, ieri. 700 morti. Ma bisogna dire a Salvini che la smetta di dire quelle sciocchezze che dice. Ma io non ho vergogna di dire che non sono d'accordo in quelle frasi che dice. Santanché, perché poi che è successo? Bella questa carrellata di umanità. La cosa incredibile. Bella questa carrellata di umanità. Gli stessi che spesso poi ci accusano, no? Chiamate appena succedono le tragedie, subito a chiamare Santanché e Salvini, perché sanno che c'è la dichiarazione forte. Poi rompono i coglioni a noi. Vabbè, quei 700 morti meritano di più che non una dichiarazione di questi. Poi, quando avrei finito di fare questa stupida retorica, di usare le parole che usano i politici. No, perché ci sono dei momenti in cui che sono quelli che speculano su queste storie per voti. I militari devono affondare noi, i balconi. Tu la che Santa raccontiamo Anche. Quel che succede, che possiamo avere delle opinioni. Mi fai sentire la Santa Anche invece di sproloquiare ancora, dai. Qua deve alzarsi la nostra aeronautica militare, la nostra marina militare, e andare ad affondare tutti i barconi, come già è successo in precedenza, vi ricordate, in Albania. Se poi questo è un atto di guerra o non è un atto di guerra, poco se ne importa. Però non è che possiamo parlare tutta la serata di queste robe qui, perché a un certo punto arriverò alle 20:30 che spacco qualcosa se parliamo tutta la sera di immigrati, delle frasi che ho letto su Twitter, di quelli che hanno detto bene, troppo pochi, ce ne vogliono ancora, eccetera eccetera. Per cui vi faccio sentire una cosa del professore Sgarbi, ovviamente, no? Che era al Maurizio Costanzo Show insieme al figlio, un'altra volta insieme al figlio, eccetera eccetera, e a un certo punto con davanti il figlio gli ha detto: tua madre ha smesso di prendere la pillola senza dirmelo. Beh, ho trovato tutto ciò meraviglioso. Non è uno sbaglio. Questo è quello che credo io, ma ognuno crede tante cose, nel senso. Tipiche della mia vita, io sono un uomo temerario e imprudente. Tua madre, in compenso, smise di prendere la pillola senza dirmelo, tanto per chiarire com'era il quadro. Allora. Cioè, si sono messi a discutere, a litigare. Vabbè, ragazzi, cioè, è pazzesco. Cioè, Sgarbi che litiga col figlio dicendo: no, non sono stato, capito? Ma sono uno temerario e imprudente, anzi, la colpa è di tua madre che smise di prendere la pillola. Ma è una cosa pazzesca, dai. Se non era tutto concordato è meraviglioso. No, ma che concordato? Ma che ne so, magari è tutto concordato. Ma figurati se concordo, tutto può succedere. Sì, okay. Ma torniamo alle tragedie. Oggi tu vuoi parlare solo di questa cosa delle tragedie? No, non voglio parlare, anzi, guarda. Tu vuoi parlare solo di tragedie. No, la tragedia umana della politica, quella è l'unica tragedia. Sì, la oltre ai 700 adesso morti, sono tornati tutti che meriterebbero qualcosa in più, sì, vabbè, che non d'accordo. Salvini. Vabbè, ecco, d'accordo. Questo ti voglio dire. Io questo continuo a pensare che se uno quella parte immondizia di Radio Padania, va bene? Quella è immondizia. Sì. La roba Radio Padania è immondizia. Ma perché devi dire immondizia? Questo? Immondizia. Vabbè. Immondizia. Io continuo a pensare che se parti, no. Vuoi sentire cosa l'hai già detto? Se parti, ti assumi il rischio di morire. Se parti ti assumi il rischio di morire, perché poi pietà umana, quello che vuoi. però la penso così. Alba, come stai? Alba Parietti. Ma, ragazzi, ma avete bevuto un gruppo di ubriaconi? Cioè, perché? Che è successo? Ma che tutti state dicendo, allora, vabbè, Vittorio che dice al figlio una cosa del genere, non si può proprio sentire, vabbè. Ma come mai? È impazzito? Perché? È folcloristico, ma no, perché lui ce l'aveva evidentemente con la Brenner, però non si ricorda che quello è il figlio, cioè voglio dire, non si può mai dire a un figlio. Al figlio, no, è tua madre che non piglia... La Brenner è morta, sì. L'anima sua, poverina, è anche morta, ma veramente... A Vittorio quando dice queste cose non, secondo me non ha la percezione di quello. Io ho come la sensazione che tutti abbiano perso la percezione di quella che dicono, anche un po' tu Perché? Luciani, perché brava, ma come cazzo fai a dire per cortesia della gente che vive sotto la guerra, che non ha niente, non voglio fare la populista, non tutti però non voglio tutti. Dire, ma dai, per cortesia, non tutti. Un accidente, senti, ma chi non vuoi tutti che c'è abbia chi voglia? Scappa per fame, per economia, ascolta, per andare a cercare in cerca di un mondo migliore, è perché tutti abbiamo diritto, tutti noi. Sì, ma se dobbiamo accogliere noi, allora ascolta, noi facciamo come dire in quattro per un lavoro, dire che non so neanche se chiamarlo lavoro, perché in fondo ci pagano per divertirci. Questi scappano per sopravvivere a una guerra, per avere una vita, allora? Per non essere vittime del terrorismo, per avere un lavoro, per mangiare, eccetera, eccetera, e dice, ma si assumono la responsabilità. Certo, sanno che possono morire. Non è che stanno andando a lasciare, stanno andando a cercare. Cioè, e allora? viaggiano dentro, allora accogliamoli tutti, accogliamo tutti quelli che hanno bisogno di morire, hanno bisogno, accogliamo tutti quelli che hanno bisogno, siccome c'è un sacco di gente in difficoltà nel mondo, accogliamoli tutti. Ascolta, puoi fare a meno di urlare così mi fai parlare? Allora è chiaro che l'Italia non è più in condizione, allora siamo tutti sicuri, tutti siamo consci del fatto che soprattutto l'Italia, che ovviamente sopra la forma per cui è fatta. Però Alba, scusa, quando io ho detto è evidente che bisogna trovare delle soluzioni a livello internazionale che diano d'accordo. Però da lì, voglio dire, scusami Cruciani, da lì a permettersi una frase, guarda, io Daniela Santanchè, che conosco da 30 anni, non la voglio più salutare. Perché? Non le voglio più parlare, come Perché? Non voglio più parlare con nessuno che faccia apologia di stragi, nel senso che non può, di stragi nel senso di razzismo di questo genere. Allora non puoi permetterti, nessuna persona che abbia che ha detto la Santa Chè, questa cosa dei barconi. Guarda, io perdono quei poveri ignoranti disgraziati che le vanno dietro con i Twitter scrivendo sono morte quasi 1000 persone. Erano quasi, cioè deve stare zitta la Santa Chè. La Santa Chè deve stare zitta. Donne, aspetta, bambini, donne, eccetera. Vabbè, eccetera, lo sappiamo, morti, dai. Ma maniera, ma neanche i topi possono morire in quel modo. Cioè... E se fossero morti, esatto, i topi forse avrebbero. Ma state dicendo dei fatti che sappiamo. I topi, non ci sarebbe stato qualcuno che si sarebbe permesso di dire sì, affondatene altri 100, perché solamente degli ignoranti che hanno veramente un cuore talmente disperato. Cioè, vabbè, ho capito, ma che cosa rimproveri alla Santa Chè? Ferma un attimo che c'ho il traffico, adesso torno. Purtroppo c'ho il traffico a quest'ora, che devo fare? Buonasera e buona coda chi è in macchina come Manzara. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Ragazzi, ma avete visto, Parenzo, queste immagini fantastiche di questa Stefania la Greca, Lega Sud Ausonia, candidata con Caldoro? Beh, ragazzi. Stefania la Greca l'avevo vista. Cioè, non muoiono mai queste cose. Sexy curioso. Modella di San Giorgio a Cremano. Di San Giorgio a Cremano, candidata col centrodestra in Campania, la quale pubblica tranquillamente sul suo sito, su internet, c'è delle foto praticamente col culo di fuori, con le tette, ma la roba strepitosa. Forse erano di prima queste foto. Ma no, ma attuali. Poi le ha cancellate, infatti, no? Ha cancellato le foto più 8 dal suo profilo. Scusa, ti faccio una domanda, Cruciani, il culo era il suo? Ma sembra di sì, assolutamente. Ma allora va benissimo. Guarda. Ma ho capito, ma tu non puoi mettere... L'importante è non fare il candidato, ma ora ti scandalizza ancora qualcosa. Ma no, non mi scandalizza, ma... Guarda, a me l'oscenità, voglio dire, ho un'oscenità continua. Allora, qua ognuno dice tutto quello che gli passa per la testa, mi senti? Sì, pronto? ti sento, avvicina allora, un po' più la bocca al microfono. Ognuno dice tutto quello che gli passa per la testa. Ma che rimproveri alla Santa Chè? Non ho capito, alla Santa Chè cosa rimproveri? Questo voglio capire. Allora, fammi sentire... Cosa rimprovero? Allora, io veramente mi appello al Papa, non sono credente, però sono cristiana. Sì. Mi appello al Papa, perché quello che ha detto la Santa Chè non lo dice nessuno che abbia un ruolo pubblico. cioè lo può dire un ignorante povero disgraziato a cui è stata ed è per questo che non ci vuoi più parlare, per questo non ci vuoi più parlare. No, non le parlo più, perché questa qui è veramente apologia di genocidio, non so, è razzismo, è nazismo allo stato puro, cioè è come dire inveire contro i disperati. Ma ha detto che bisogna andare a colpire i barconi, cioè bisogna andare a colpire i barconi, spero vuoti, abbia detto, credo di sì, vuoti, non pieni, cioè colpire i barconi prima. E allora vorrei che lo specificasse, perché voglio dire, ne ha dette una serie in questo periodo che non si possono sentire, ma in ogni caso io ritengo che in un momento di questo genere, dove ci sono 900 persone morte in non puoi dire di andare a colpire. Non, ma proprio devi solo tacere, voglio dire, non c'ho niente. Deve solo da dire, tacere. Adesso una persona che fa il politico in Parlamento non può dire la sua su come affrontare l'emergenza immigrati. Magari allora, pure te sei curiosa. L'emergenza immigrazione, quando Salvini dice appunto che Boldrini e compagnia si sono sporcati le mani di sangue, sì, perché hanno fatto sì che questo buonismo, eccetera, eccetera, fanno il loro gioco nella maniera più furba, più astuta, perché in qualche maniera. C'è uno sciacallo, anche per te è uno sciacallo? È uno sciacallo, Salvini? Sì. Salvini. Beh, in questo momento più che sciacallo no, fa lo scaricabarile facile, come dire. Allora ci sono 900 morti, quindi c'è la commozione, spero almeno da qualcuno, perché sarebbe assurdo, invece sì, non c'è, perché legge anche gente che dice ammazziamone altri 1000, 2000, 3000. Però a te ti ha fatto girare le balle questa cosa della Santanchè dei barconi, no, in particolare. No, io dico che i politici veramente e le persone pubbliche devono cominciare a parlare un linguaggio che sia accettabile e non sia incivile, che non sia un'istigazione al razzismo, che non sia qualsiasi cazzata ci passi per la testa, uno la può dire, e senza che nessuno gli dia un fermo, perché a partire dal Papa, a partire dai nostri politici stessi. Però scusami, una la Santa persona che rappresenta le istituzioni, sì, allora se una povera signora mi è stata levata la casa e non ha la scuola, non ha il sbrocca, tu dici sbrocca, pagare le tasse, eccetera eccetera, inveisce contro gli stranieri, puoi dirgli è una povera, una donna ignorante, poveretta, che non capisce, che però la puoi capire, la puoi ho capito. Col invece è una come la Santanchè? Non è passabile, lei lo fa semplicemente per attirare l'attenzione, evidentemente, perché poi avrà una risonanza come infatti non ha, perché ne stiamo parlando, però non può più permettersi queste cose qua, cioè ci deve essere una regola che dice basta, perché sennò io domani mattina... Ma che cosa, ha perso la testa secondo te dicendo che i militari devono affondare i barconi? Che ha fatto? Ma se sul barcone intendeva dire i barconi con la gente, mi sembra che non ci sia più niente da dire, cioè voglio dire, non è giustificabile questa frase sotto nessun punto di vista. Cioè bisogna chiamare la nebula. I barconi, eccetera, di barconi ce ne sono tanti, c'era anche il suo, e voglio dire, ognuno affonda i barconi che gli pare. Cioè, cioè qual è, come il suo? Che suo c'era? Che c'era? Ma lei ha avuto tanti anni la barca, non la sa neanche, voglio dire, forse parlava delle barche in generale, allora se vogliamo affondare i barconi cominciamo dal suo, dici? Cominciamo dal suo, che magari qualcuno farebbe anche piacere. Senti, ma hai visto Giorgio Armani che se l'è preso qualcosa? Voglio cambiare argomento, perché sennò Giorgio Armani che se l'è presa col lifting, pazzesca questa cosa, eh? No, ma no, degli altri. No, degli altri. In che senso? Dice la chirurgia è un'idiozia sulle donne. Un seno piccolo non deve diventare grande. Preferisco guardare una donna naturale. Una donna dovrebbe avere il coraggio di invecchiare e non fare di tutto per sembrare più giovane. E questo vale anche per gli uomini, dire ad Armani. Beh, sì, penso di sì. Poi ha detto: se è così rimasto così, Armani, che è un gran bel uomo. Sì, ma addirittura ha detto che gli omosessuali devono vestirsi non devono vestirsi da omosessuali. Ma non ho capito, ma perché? C'è un omosessuale. Uno che devono vestirsi Armani, evidentemente. Beh, forse qualcuno intende che si devono vestire Armani, ma perché non capisco perché un omosessuale non si può vestire come gli pare, anche con le piume, eccetera. No, si deve vestire da uomo. Un uomo deve essere un uomo e un omosessuale lo è al 100%. Ma no, io credo che lui sia stato. Oddio, spero per lui che sia fraintesa la sua. Ma a me mi sembra che. No, ha detto così: non vestitevi da omosessuali. Un uomo deve essere un uomo e un omosessuale lo è al 100%. Ma... No, però lui fa un discorso, posso dire, qua attento di trovare il lato buono. No, l'esibizione. No, lui forse, però dovrebbe fare un discorso un po' più ampio. Io una cosa che ho sempre pensato, che in qualche maniera una certa forma di ostentazione, che è anche certo senso un po' irritante. Aspetta, cerca di capire che ma cosa per chi eri? Aspetta, che devo chiudere. Aspetta, ferma che c'ho il giornale radio. Ferma. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Pubblicità. Wufrito Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. programma, ti seguo sempre, dalla mattina alla sera. Scontro pazzesco di stamattina in televisione tra il direttore di Radio Padania e Fabrizio Rondolino, che è un giornalista, commentatore, è stato anche uno che faceva parte dello staff di D'Alema quando era a Palazzo Chigi tanti anni fa, insomma, uno molto presente in televisione. Morelli, direttore di Radio Padania, sentite come inizia Morelli, sulla questione dei barconi, eccetera, eccetera. Ma guardi, sciacallo forse è chi ringrazia i militari che stanno facendo il loro lavoro quando ci sono 700 morti in mare. Sciacallo forse è chi stringe le mani e manda abbracci a famiglie che probabilmente non sapranno neppure che i loro parenti sono annegati, sono morti in mare. La scelta del governo Renzi e quella di Mare Nostrum, Triton, eccetera eccetera, Renzi, Alfano l'hanno fatta, non capisco perché l'Europa, la Merkel, gli altri governanti europei debbano rispondere per delle scelte italiane che sono scelte assolutamente assurde, perché sono le uniche al mondo. Cioè, qua sembrano 28 pazzi che non vogliono aiutare l'Italia, ma forse dovremmo renderci conto che solo... Arriva, sbrocca, no? Aspetta. Fabrizio Rondolino. Ma non vuole mica che risponda a questo... Delirio. A questo... Chi è? Il direttore della Padania, mi diceva Angelo Mauro. Direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli. No, vabbè, Morelli. Ma è Gentaglia, veramente non... Se, Gentaglia sarà lei, scusi, eh. Io ho espresso Gentaglia, un'idea Gentaglia, che forse è ben diversa Gentaglia da quella di tanti politici e tanti giornalisti. Ma non sono idee. E che rappresenta, sa cosa rappresenta? I cittadini italiani, sì, perché vabbè, gli italiani ne hanno piene le scatole di vedere in televisione, di vedere queste parole di Renzi. Un immigrato ci costa 35 euro al giorno, che paga anche lei, sì. Anzi mi piacerebbe sapere quanti ne ha a casa, e peraltro gli italiani vivono nelle macchine, perché ci sono gli esodati, glielo ricordo, giusto per capirci. Sì, vabbè, ma allora, sono gli esodati. Mi scusa, non ho intenzione di discutere con questi imbecilli. Lei non si rende conto che la politica come la fate voi è diventata gestione del consenso? Ma non ho intenzione di discutere con questo imbecille. Ma come si permette? Lei sta dando dell'imbecille a sì, qualche no, milione di italiani che la pensa esattamente no, come me. Ma lascia perdere gli italiani, Marco, sai cosa sono gli italiani? Uno che arriva qui e dice, Presidente del Consiglio non rappresenta nessuno. Ecco, non rappresenta nessuno. Il Presidente del Consiglio gode della fiducia del Parlamento. A un certo punto se ne va, Poi a un certo punto fatto se ne va. Ma perché? Ma perché ha fatto benissimo? Non ho capito. Perché posso dirti, ma perché Franco, ha fatto benissimo? Allora, non ho capito perché ha fatto bene. Da 4 anni uno per che dà dell'imbecille a quello che mi pare, dell'imbecille no? A uno, Gentaglia, quelle... cioè, no. Poi se ne va. Gentaglia. Ha fatto bene. Vabbè, no, Gentaglia. Perché ha scelto lui liberamente di non dialogare con quella Gentaglia in un contesto. No. Ha fatto bene. Posso dire che ha fatto bene o no? Va bene, però tu dovresti avere il coraggio di fare la stessa cosa. Dovresti avere il coraggio di fare la stessa cosa. Io che non hai il coraggio. Da 4 anni con te accetto queste regole di non hai il coraggio di rifiutare il colloquio con i leghisti eccetera, anzi ci vai scusa, a braccetto a braccetto un corno. Proprio un corno l'intervisto come fai tu nei diversi lavori che faccio qui come a Matrix eccetera, siccome qui mi è consentito esprimere anche un parere e un'opinione perché questo faccio, perché mi è consentito fare, dico che è Gentaglia. Posso dirlo? Quel signore lì di cui manco conoscevo francamente l'esistenza è Gentaglia fino perché? A pochi perché? Minuti perché fa, lo definisci Gentaglia? Fino a pochi minuti perché fa, lo definisci Gentaglia? Non ho capito, perché è una persona umanamente agghiacciante, umanamente e politicamente agghiacciante, peggio ancora. Allora, senti quello che ha detto un editorialista molto conosciuto in Inghilterra. Tu concordi con quello che dice quel signore? No, in parte sì, in parte no. Il doroteismo di Cruciale della Zanzara, senti, in parte sì e in Davide, parte no. Davide, devo condurre una trasmissione, non devo stare qua a litigare con te, perché tanto lui sai dire solo tragedia, non sai dire nient'altro. Allora, dice questa simpatica signora che si chiama Katie Hopkins: gli immigrati sono come scarafaggi, contro di loro vanno schierate le navi da guerra, mostratemi le bare, le facce denutrite, non me ne frega niente. Così ha detto. Anzi, ti leggo in maniera più chiara: non me ne frega niente, mostratemi le foto delle bare, i corpi che galleggiano in mare, suonate i violini e fate vedere gente denutrita con la faccia triste, ancora non me ne fregherebbe nulla, perché nel minuto successivo vedrei foto di giovani uomini aggressivi che si diffondono come un virus sulle navi di Calais mentre provano a salire sui camion inglesi per entrare illegalmente nel Regno Unito. Provo pietà solo per gli autotrasportatori, che si beccano una multa ogni volta che la piaga di questi esseri umani bestiali finisce nel loro camion. Non vi fate illusioni, gli immigrati sono come scarafaggi. Sono fatti per sopravvivere a una bomba atomica, sono dei sopravvissuti. Dobbiamo fare come gli australiani, tiriamo fuori le navi militari, puntiamo i cannoni, li facciamo tornare a riva e poi bruciamo i barconi. Allora, devo dire che l'ultima parte, al di là detto, l'ultima parte, facciamo come gli australiani, tiriamo fuori le navi militari, puntiamo i cannoni, li facciamo tornare a riva e poi bruciamo i barconi, la condivido. TG3. And now the headlines, news channel 3. E adesso i titoli del TG3. Nuova tragedia in mare, barca si spezza sugli scogli di Rodi, a bordo 200 migranti, 90 portati in salvo, soccorsi altre tre imbarcazioni in difficoltà. Un sopravvissuto del barcone rovesciato, eravamo 950, molti chiusi nella stiva, i naufraghi aggrappati ai cadaveri per non annegare. L'allarme della procura di Palermo, in Libia 1 milione di disperati pronti a partire, il PM di Catania, Triton inefficaci, mercantili inadatti ai salvataggi. Solidarietà all'Italia, ma l'Europa divisa sull'emergenza, giovedì nuovo vertice Mattarella, l'Unione non resta indifferente, misure finora insufficienti. Renzi, interventi mirati contro il racket degli scafisti, i nuovi schiavisti, ma il blocco navale non è la soluzione, è necessaria la risposta di tutta la comunità. Poi che cosa vuol dire è necessaria la risposta di tutta la comunità europea? No, poi, questa è un'ipocrisia. Poi chissà. Perché non ha fatto nulla, Leo. Questa è un'ipocrisia chissà, vera. Chissà cosa significa. Gli inglesi, peraltro, hanno detto delle cose terribili, infatti, se ne fottono. Ma la Parenti dove è andata? Dove è andata la Parenti? Gli inglesi sono stupendi, meravigliosi. Stupendi. Non danno un euro per nessuna cosa. Ma sai perché se ne fottono? Perché? Tanto sono lì al nord, non è che certo. Loro non è che loro subiscono nessun tipo di immigrazione, stanno al nord e se ne fottono. Vanno schierate le navi da guerra. Ma dove? Mostratemi le bare. Nel Mediterraneo. Le facce denutrite, certo, le facce denutrite, non me ne frega niente. È una persona che non fantastica, direi. Merita neanche termini da nazismo. Allora Andrea da Roma. Guarda, di solito scatta parezzo mi faccio ricogliere, però stasera tu mi fai veramente schifo, te lo dico proprio a chiare lettere. Perché? Mi fai veramente. Perché speculare sui bambini morti annegati è da schifo. E che cosa ho detto di partire? Perché di quando la banalità che tu dici, sì. La banalità che tu dici, quelli sanno che sanno, no. I bambini montano assieme alla mamma. Beh, che cazzo ne sanno? I genitori, chiaramente, non i bambini. No, ho capito, ma secondo te quello si mette sopra una barca, affronta una tempesta non sapendo che va incontro alla morte per scappare da dove? Scusate, ma perché fate gli animali sopra la pelle? Ecco, dopo questo sfogo, sì. Questa cosa tutta contrita, questa cosa di indignazione. Dopo che hai fatto la parenzata, la tragedia è successa, sì, una tragedia. Dopo che succede? E dopo che succede? Che fate? Se dopo che non avete fatto un cazzo per 50 anni? Io non ho ruolo di governo. Che fate dopo? Che fate? Come agite? Come rimediate? Come rimedi, Andrea? Come rimedi? Prima di tutto c'è la Tunisia che ha 2 milioni di profughi libiani che stanno laggiù e l'Europa non ha mandato un euro. Vabbè, ma adesso non parliamo della Tunisia. Questo è il grande problema. Ma qual è la tua ricetta? Magari secondo te bisogna accoglierli, bisogna prenderli e accoglierli tutti. Assolutamente sì. No, accogliamoli tutti. Tutti accolti. Tutti accolti. Ah, perché scusami, quei 700. Le preferite morti che non accolti. Bisogna aiutare queste persone. Se queste scappano da qualche parte, bisogna andare a vedere qual è il problema dietro la radice. Però posso dire un'altra cosa. A proposito di scarafaggi, vi ricordo la storia a scuola che noi popolo italiano siamo andati in America come scarafaggi a chiedere lavoro. Sì. E ce lo siamo dimenticati. Basta con questa storia che risalgono non so quanti anni fa. Ma dimenticato. Anche i veneti sono andati in America a chiedere lavoro. Va bene, Andrea, ho capito. Andiamo a Bologna, Nino, vai. Sì, sono cioè vi dovete vergognare, soprattutto lei. Sì, di che cosa mi devo vergognare? Non ho capito di che cosa mi devo vergognare. Di quello che sta dicendo quel signore, che sta dicendo dei bambini che possono morire. Ascolti una cosa. Ma è certo che i bambini possono morire, infatti muoiono. Mi faccia parlare. Io l'ascolto, rispetto quello. Ecco. Se non parli. Io sono di origine algerina, vivo in Italia da 40 anni, mi sono integrato. Benissimo. Mi sono sposato, ho dei bimbi. Vivo in Italia, faccio della beneficenza. Vabbè, ma questo sono affari suoi. Fermo. Sì, ma parla, allora, bisogna parlare qui, non è che bisogna stare zitti. Bisogna parlare, stia zitto allora. Ma io sto zitto, sei tu che non parli. Ecco, allora stai zitto. Stai calmo, amico mio, okay. non ti scordare. Fammi parlare, qui a Bologna c'è un quartiere pieno di meridionale. Sì, ma che c'entra? Che non paga questo? Nessuno paga l'affitto, nessuno paga la luce. Nessuno paga le tasse, nessuno paga voi. Vabbè, dunque vi dovete vergognare. Quello della Lega, sì. La Lega fino a ieri voleva dividere l'Italia. Vabbè, adesso invece tu eri un meridionale per la Lega. E adesso invece parla di nazione, di italiani. Fermo lì. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Questo non credo. Borse in diretta. Bentrovati, vanno bene le borse a New York, il Dow Jones sale in questo momento dell'1,20%, mentre il Nasdaq guadagna l'1,23%. Veniamo in Europa, dove dopo due sedute in negativo e nonostante restino immutate le preoccupazioni sul fronte della Grecia, Atene ha chiuso a meno 0,11%, le borse hanno ripreso slancio e hanno chiuso positive. Francoforte ha guadagnato l'1,74%, Parigi è salita dello 0,86%, Londra dello 0,82%. A Milano il FTSE MIB ha fatto segnare un più 1,25% e il FTSE All Share un più 1,19%. A Piazza Affari bene in particolare Buzzi più 4,63% grazie a un report positivo di UBS. Acquisti anche sui bancari, dove continua a dominare la scena il risico delle banche popolari. BPM ha chiuso a più 4,53%, mentre Unicredit, sempre più vicina a chiudere l'accordo con Santander su Pioneer, ha guadagnato il 3,59%. Dall'altra parte del listino troviamo CNH in ribasso dell'1,68%, risentendo dello stacco cedola. Seguono tra i peggiori Campari, meno 1,33%, e TOTS che ha perso lo 0,77%. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso a 141 punti base col tasso all'1,47%. Il differenziale della Spagna si attesta a 138 punti base con rendimento dei bonus all'1,45%. I cambi euro su dollaro a 1,0735. È tutto, la borsa torna alle 20.30. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai. Questa trasmissione è massacrata. Ma no, che cosa strana, che grande scoperta il massacro di questa trasmissione. Ma lasciamo perdere, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. E vorrei, caro Parenzo, segnalarti una cosa. Il 26 marzo scorso, sì, per l'ultima volta ha aperto i battenti il corridoio verde della Camera dei Comuni a Westminster in Gran Bretagna, a Londra. Tu dici, sì, perché parli di questa roba qua? Può essere interessante, strana, no? Può essere interessante. L'aula è terminata alle 15 con un ultimo avviso e un ultimo avviso che è stato dato ai 650 membri del Parlamento britannico: avete 2 ore per liberare dalle vostre cose gli uffici. Due ore. Ultima riunione del Parlamento britannico il 26 marzo. Sì. Hanno fatto proprio un messaggio: avete 2 ore per andare, sì, via dall'ufficio. Beh. Poi alle 17. Un signore che si chiama il sergente alle armi, il sergeant at arms, il responsabile dell'ordine e della sicurezza, come se fosse un questore anziano, no? Sì, sì. Questore nostro, ha iniziato il giro del palazzo, ha chiuso a chiave le porte di tutti gli uffici. Arrivederci e grazie. Questo non credo. No, questo credo, no, invece. Così, no, è andata, così è andata. Tutti i 650 deputati hanno perso proprio seduta stante il loro status. Subito. Sono tornati, cioè, cittadini comuni. Noi ancora abbiamo, leggevo l'altro giorno, 2 milioni e mezzo di euro spesi, 2,5 milioni di euro, che sono certamente, no, una goccia molto piccola nel mare, della spesa pubblica, dello spreco pubblico, 2 milioni e mezzo per pagare i viaggi agli ex deputati e senatori, capito? Beh, e vi ho voglio rileggere ancora, a proposito di immigrazione, quello che scrive Katie Hopkins sul Sun, certamente un giornale popolare, eccetera, eccetera, spero molto criticata. Non lo condivida, no, non lo condivido nei termini, però devo dirti la verità. Io devo dirti la verità. No, no, caro Davide, devo dirti la verità. La verità è questa. Cioè, se tu lo fai, lo leggi giustamente per destare un minimo di per dare un'informazione, per destare scandalo. Sono... Io sono per la politica australiana, lo sai, che non entra una sola persona. Ma chissà come mai nessuno, tranne i leghisti, nessuno evoca la politica australiana. Infatti l'Europa è ridotta come è ridotta. Sarà un motivo. Ma la politica australiana è la stessa che fanno negli Stati Uniti e in altri paesi, non è solo l'Australia, no? Cioè, comunque. No, non me ne frega niente. Mostratemi le foto delle bare, i corpi che galleggiano in mare, suonate i violini e fate vedere gente denutrita con la faccia triste. Ancora non me ne fregherebbe niente. Che schifo. Perché nel minuto successivo vedrei foto di giovani uomini aggressivi che si diffondono come un virus sulle navi di Calais, mentre provano a salire sui camion inglesi per entrare illegalmente nel Regno Unito. Provo pietà solo per gli autotrasportatori che si beccano una multa ogni volta che la piaga di questi esseri umani bestiali finisce il loro camion. Poi definisce gli immigrati degli scarafaggi, bisogna fare come gli australiani. Allora, sul fatto che al 99% degli italiani non freghi nulla, beh, secondo me ha ragione. Lei parla dell'inglese, io parlo degli italiani. Non ce ne frega niente. Questo non è vero, tant'è che non ce ne frega niente. Devo dirti la verità. Gli italiani impegnati nel volontariato. Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Che non me ne frega niente nemmeno a me. Te lo dico esplicitamente. No, ma te lo dico in maniera. Sinceramente, ci penso. Poi, se guardo come conduco la mia vita quotidianamente, e come la conduci anche tu, e come la conducono tutti gli altri, ma non vuol dire niente. Bisogna chiaramente dire, avere il coraggio di dire. E qual è la conseguenza di questa roba? Non ce ne frega niente. Ma non è vero, e non ce ne fregato niente. Allora, fino adesso. Ma come no? Allora scusami, sarebbe come dire che la gente Carlo non ha fregato nulla delle grandi stragi che sono nella storia? Ma è quasi così. Nulla. Carlo da Bari. Ah, beh, bello. Luisa da Padova. Beh, a me francamente della Shoah qualcosa mi è Luisa, fregato. Luisa, no, ma non è questo. L'olocausto, francamente. Ragione. Dimmi, Luisa. Cruciale, io ti do pienamente ragione. Parezzo, zitto, io sono concorde con la signora Hopkins. Anche a me non me ne frega niente. Io telefono da Padova. Perché non te ne frega niente? Perché non me ne frega niente gli ex comunitari. Ti garantisco che gli ex comunitari sono nelle nostre città, li arrivano, si riversano nelle nostre città, nelle nostre vie, la fanno da padroni, rubano. Basta, fammi ascoltare. Allora io viene il vomito. E poi gli unici che vengono arrestati sono due poveri cristi italiani, sì. Perché loro entrano nelle carceri e riescono immediatamente, anzi entrano nelle carceri e stanno benissimo. Però Luisa, è un lusso per loro. Voglio capire che cosa hai provato quando hai saputo della notizia dei 700, 900, 950. Assolutamente niente, ho detto pochi, troppo pochi, molti di più. Non devono più venire qui gli ex comunitari e fare i porci pochi. Comodi loro nella nostra città. Pochi. Porci comodi. Pochi. Loro. Ma lei è una vergogna umana. Pochi. Troppo pochi. Siamo ma lei è una vergogna tutti, umana. Noi paghiamo delle conseguenze altissime, solo è pieno solo di extracomunitari. Tu giri per le città, mamma, giri per le vie, devi chiedere un'informazione e dici ma dove sono? Ma questo... Tunisia? Solo ex. Allora, però io voglio capire da Luisa una cosa. No, ma non c'è più da capire oltre cosa. Ha detto pochi, ma ha dato il numero di telefono. È una vergogna questa storia, è uno schifo. Scusami, è un Vespasiano, Davide, ma che c'entra un Vespasiano? È una persona che ci sta raccontando quello che ha provato nel momento in cui ha detto pochi. Perché ha detto non fare l'indignato speciale. Ma no, mi fa schifo veramente. Chiedile perché ha detto pochi. Chiedile se fai. Se un minimo di interesse all'umanità. Perché ma no, l'umanità bestiale no, francamente. Se tu andassi nel loro paese ti tratterebbero molto peggio di quello che vabbè, loro infatti uno si può dire, Luisa, si può dire che scappano proprio da quel paese lì, esatto, appunto per questo, appunto perché magari allora tu prova a venire non nella tutti, nostra città. Poi scoprono che c'è Luisa e se ne tornano nel loro paese perché gli fa schifo vivere con della gente come lei. Non vogliono vivere in Italia, Luisa, non vogliono perché c'è gente come lei. Vengono qua, sbarcano e vogliono andare in Germania. Non vogliono starci quelli perché ci sono dei coglioni come lei, ha capito? Ma che restano qua? Non quelli che hanno la laurea. Scusa, i bambini che sono morti. Va bene, Luisa, lascia perdere la Germania la laurea. I bambini che sono morti, che cosa ti suscitano? No, beh, per carità, umanamente è ovvio che mi dispiace per un cane, ci manca, mi fermo e mi ammazzo io se mi attraversa un gatto. Non è quello. Però come Hitler, come i nazisti lo dicevano così. I nazisti, cioè la prima la moglie dei nazisti. Decideva così. La prima cosa che hai detto, però è troppo. La prima cosa che hai pensato, troppo pochi. Sì, troppo pochi per quello che loro vengono a fare qui. Vabbè, non è che questi qua siamo esasperati. Noi non possiamo più uscire la sera. Io ho 50 anni, mi sono sempre divertita. Uscivo la sera tranquillamente, ci si ritrovava nei bar, nei locali. Vabbè, non ho capito tutto. Grazie, Luisa. Ciao. Aldo, provincia di Venezia, vai, Aldo. Io vorrei sapere una cosa. Intanto qua Renzo deve finire di rompere i coglioni, di fare il difensore di tutti, di tutta, se c'è una feccia lui è il difensore della feccia. Dunque, non ho capito, A lei non la difendo. Non ho capito. Ah. Quindi lei è l'eccezione, diciamo, no? Ma no. Lei è, essendo feccia, lei è l'eccezione, per cui non la difendo. Stia tranquillo. Ma sei mai stato a Padova? Ci ho vissuto per 25 anni. Aldo, io torno alla domanda iniziale. Quando hai saputo di 700-900 morti? Guarda, che... posso dire... La verità, la vera sincera... Non un emerito cazzo di niente. Zero. Cioè, zero. Non hai avuto nessun tipo di reazione? Emozione zero, anche perché è una notizia che è come la domenica sportiva. Cioè, scontate, dici, la gente che muore nel Mediterraneo. Questo bisogna dire che è vero, Parenzo, non ha torto da questo punto di vista. Cioè, 700, 900, 300, 400, 50, 200, non è che 50 sono meno. Il fatto che vi siate abituati ai morti la dice poi lunga. Ma come? Il fatto che vi siate abituati ai morti. E come? In 5 minuti. Anche comunque a te sabato mattina quando ci siamo visti non ti vedevo contrito, No, ma allora non eri contrito. Mettiamoci d'accordo. Che stavi facendo? Stavi lì tranquillamente a parlare, a ridere. Abbiamo ruoli e lavori diversi. Allora, la cosa quella che veramente sembra, capito, che sei andato in penitenza in chiesa a pregare dopo aver saputo nulla di tutto questo. O non ho nessuna responsabilità politica, ho la responsabilità delle cose che dico e del mestiere che faccio. Ma moralmente, sì. Allora, avendo responsabilità per quel che dico e faccio, uno che muore moralmente ti può suscitare del dolore, ma a parte che non li conosco, quindi no, mi addolora di più quando vedo uno che muore in bicicletta o uno che muore in moto. Ah, perché uno prova compassione solo per i propri prossimi. Sì, certo, ma è un sentimento. Non è un cazzo, hai capito? Non è un problema mio. No, ma scusa, ma se Aldo. Anni, ragazzi, saremo 11 miliardi. Ma Dio Cristo, ma dove te li vuoi mettere? Tutti a casa tua, Parenzo? Portateli a casa tua, cosa vuoi che ti dica? Allora, però, il signor Aldo della provincia di Venezia esprime un sentimento abbastanza diffuso. Cioè, uno è più colpito dalla morte. Ma anche durante il nazismo era un sentimento diffuso, lo vuoi capire o no? Ma che c'entra la maggioranza silenziosa che diceva che andava bene così e non erano parenti suoi, quelli che finivano nei campi. Ma che cazzo dici? Ma che c'entra il nazismo? Ma che dite? Ma che c'entra il nazismo? Ma cosa state dicendo? Ma ormai siete arrivati a un livello di bestialità assoluta. Ma a parte, rivolgiti ad Aldo, non a me, rivolgiti ad Aldo. È incredibile, non erano miei parenti e quindi chi se ne frega? Di altro stai parlando di, dici sempre le solite stronzate, sempre le solite, cadi sempre nel solito tranello. Io per far vedere che sei il signor risolvo tutto. Ma che cazzo risolvi? Io ho detto ognuno risolve e fa il proprio mestiere bene o male. Allora io l'unica cosa che posso fare è quella di provare a fare il giornalista, di raccontare delle cose e di dire quello che penso. Questo è il mio ruolo. L'avvocato fa l'avvocato, il notaio fa il notaio, la Mogherini fa la Mogherini e il Parlamento italiano ed europeo fanno le loro cose. Il nostro ruolo è quello di dire e raccontare come vanno le cose, capito? Questo è il nostro ruolo. Che non c'entra niente. Questo è il nostro ruolo. Che non c'entra un cazzo di niente. Sta gente qua. Segnalo che questo è un atteggiamento assolutamente razzista. Questa gente qua? Il problema lo risolvi, ci metti 10. Quante nazioni siamo in Europa? 28? 10 navi a nazione, non è tanta roba. 280 navi. Nella costa libica 280 navi con i radar, li blocchi tutti. Alla partenza. Fuori dei coglioni, tornate indietro. Tornate indietro. Non avete i requisiti per venire qui. Qui viene chi ha il permesso, chi va a lavorare, chi può vivere e lasciare vivere gli altri. Tutto il resto fuori dai coglioni. Va bene, fuori Aldo, ciao. Siamo ad alti livelli qua, Allora, Abbiamo con noi, caro Parenzo, un assessore al territorio della Regione Lombardia, esponente di Fratelli d'Italia, Viviana Beccalossi. Buonasera, detta anche la Le Pen italiana per la sua conformazione fisica, per la sua fisicità. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, come andiamo? Molto bene, grazie. Voi? Non c'è male, non c'è male. Parenzo, conosce la signora, perché che c'hai tu? Perché adesso fai il pianto. Quando ti ho visto l'altro giorno, non eri in lutto per la morte di queste persone. Però facciamo i seri, cioè diciamo una cosa. Dai, su. Non è che uno si mette a piangere. Ho capito. Ognuno di noi ha un ruolo. Se tu vuoi, fai la solita stronzata che dici: cosa hai cambiato? Tu no, io non ho cambiato niente, perché non ho il potere di cambiare, se non di raccontare le cose e anche far sentire purtroppo queste bestialità è un modo per raccontare questa Italia di merda. Ecco qual è il mio ruolo, ecco quale ruolo mi sono ricavato. Perché come te non abbiamo nessuna possibilità di incidere, se non quello di raccontare, se non altro. O no? O ma perché uno questo. Deve essere ipocrita nel dire che. Ma che tu sei così, ma tu va benissimo. Tu ok. Tu invece tu ti emozioni così. Di fronte alla morte di 900 persone. Beh, è scontata per come stiamo conducendo. 700, per 700 francamente mi ma anche uno, due, perché molto. Certo, ma anche uno, due, ma una tragedia come questa, specie se si poteva. Poteva evitare uno. Vabbè, e di questo parliamo appunto. Niente, signor Beccalossi, io volevo chiedere una cosa, ma le persone che partono, secondo lei, io ho sostenuto una tesi all'inizio che ovviamente Parenzo mi ha attaccato, ma non lo dico in senso come dire, disprezzandole queste persone, ovviamente non disprezzo nessuno, figuriamoci le persone che sono morte, i bambini, eccetera, ma sanno di andare incontro a un rischio, è una follia dire una cosa del genere? No, non è una follia. Cioè sanno di poter morire, questo dico. Io penso ai tanti bambini che vengono lasciati dai genitori sulle barche, neanche accompagnati per sperare in un futuro migliore del nostro certo, paese. Certo, li mandano in posti dove madre, sperano possano avere una vita. E da madre, prima ancora che da politico, sono veramente colpita da questa cosa. Dopodiché da politico dico che noi dovremmo far di tutto per fermare questa che è la schiavitù del terzo millennio con gente che specula. E come? Dobbiamo farlo in maniera molto semplice, mettendo le nostre barche della Marina poco dopo, poco di fronte alla Libia e organizzare i campi lì affinché non partano, perché nella migliore delle ipotesi. I campi lì come? Cioè andando sul suolo lì, facendo una specie di invasione della Libia? Organizzando lì dei campi, perché è impossibile continuare a ricevere persone, quelle che non muoiono in mare. In Italia, tra l'altro, un paese nostro che ha fortissimi problemi di disoccupazione, fortissimi problemi. Molti sociali, transitano dall'Italia, molti transitano dall'Italia e vanno da altre parti. Ma in comunque Germania, ma fino a un certo punto, perché a me sembra che l'Italia sia l'unico paese intanto che li riceve, che li accoglie, che li assiste. E poi è sola in un'Europa che guarda dall'altra parte. Senta, ma lei la questione di sparare ai barconi, no? Cioè sparare ai barconi. Mettiamo due ipotesi. Le navi, diciamo, vanno avanti. Non ho mai detto di sparare ai barconi. No, non ho detto che lei ha sostenuto questa tesi. Però io è da tempo che sostengo che bisogna fare una grande operazione di intelligence e sparare ai barconi vuoti, cioè distruggere. L'ultimo che ha detto questo è stato un autorevole esponente del governo spagnolo, peraltro di sinistra, tanto per essere. Ma qui sono cose che, per esempio, Edward Luttwak dice qui alla Zanzara da tanti anni, cioè sostiene questa tesi qua, bisogna fare un'operazione di intelligence, andare lì e distruggere i barconi. Ovviamente non sempre sarà possibile fermare tutti quelli che vogliono partire, però almeno ci si prova, no? Non è possibile arrendersi all'evidenza che non si può fare nulla se non accogliere, perché Parenzo è dell'idea che dobbiamo accogliere, perché non si può fare niente alla fine. Beh, io avrei preferito averli questi 700 vivi a Lampedusa e a Catania e sulla terraferma. Lei che cosa avrebbe preferito? Avere 900? Ma penso qualsiasi persona di buon senso sulla terra. Una persona normale possa gioire di 700 persone, tra cui donne e bambini, che sono morti in mare. Ma lei capisce le persone che si sono. Una persona sana di mente può sostenere una teoria del genere. Meno male. Ma chi è onesto intellettualmente non può che ammettere che evidentemente l'Italia ha sbagliato, perché vi ricordo che è passato poco più di un anno dalla tragedia di Lampedusa, dove ne sono morte 350, se ad un anno e mezzo di distanza ne sono morte altre 700, è di tutta evidenza che la politica attuata dal governo italiano è sbagliata. Sì, diciamo, non sempre è facile evitare le tragedie esistono da quando esiste l'uomo. Per si cui ha una politica internazionale coinvolgendo finalmente l'Europa e forse l'ONU, costringendo l'Europa a prendere una posizione senza lasciare da sola l'Italia, evitando che queste persone vengano messe sui barconi alla mercé del mare con gente che specula e là perché li fa pagare per salire sul barcone e qua perché ma lei che cosa farebbe? Ci sono state fior di cooperative rosse che hanno speculato sul fenomeno dell'immigrazione. Senta, ma lei che cosa farebbe? Che cosa farebbe agli scafisti? Cioè ai signori scafisti, cioè pena di morte agli scafisti? Beh, potrebbe essere un'idea. Beh, nei loro paesi probabilmente la rischierebbero la pena di morte, in Italia la pena di morte non c'è, li restituirei ai loro paesi perché se dove c'è la pena di morte, dove c'è la pena di morte, dice lei. Cioè, almeno la pena di morte la applicano. I loro paesi facessero quello che vogliono. Noi abbiamo le carceri che sono sovraffollate, molto molto da extracomunitari che qui almeno hanno un tetto sulla testa e due pasti caldi al giorno. Lorenzo, che dici? Sei silente perché ti è rimasta ancora in testa la telefonata dell'ascoltatore prima, eh? Esatto. Sei no, ancora ascoltavo. Con la telefonata dell'ascoltatore prima. Le persone però molte persone hanno pensato, appena hanno saputo questa notizia, non me ne frega niente, affari loro. Gli italiani sono esasperati. Lei capisce queste persone? Lei capisce queste persone qua che reagiscono in questo modo? C'è chi ha detto no, su internet non ci credo, è troppo bello per essere vero. C'è addirittura chi ha esultato. No, io non posso condividere questa cosa, però capisco l'esasperazione delle persone. Io ho sentito solo la coda dell'ultima telefonata di Aldo, se non sbaglio. Mi è sembrato di riconoscere una cadenza veneta. E posso garantire che purtroppo cosa sta succedendo? Che arrivano, sbarcano in Sicilia piuttosto. Ma le condanni, guardi, Beccalossi, fa più bella figura, non perde voti. Dove c'è esasperazione. Beccalossi, mi dia retta, cara, mi dia retta. Dica anche lei che è marciume quello che abbiamo sentito. Non perde voti, ne guadagna in dignità. Si fidi del giovane Parenzo. Io non ne faccio una questione dica, di voti. Dica che è una immondizia quelli che dicono queste cose. Non perde voti, cara. L'ho appena finito di dire la fattina bionda, amica mia, su. Persona sana di mente dignità. Può gioire della morte di 700 persone. E allora non dica che li capisce, però. Però poi non dica che questa pancia delle responsabilità politiche. Vabbè, quello va bene. Questo siamo d'accordo, va bene. Che succedano queste cose. Però dica tranquillamente, lo dica, guardi che non perde, mi dia retta un secondo. Ma io dico quello che credo, non perde voti. Quello che mi dice lei, ho appena finito di dire. Mi segua qua, mi segua qui. Mi segua, guardi il labiale. Mi come segua. Madre e come ma cittadina italiana, quella signora sono rimasta male nel vedere quello che è successo. Ecco, dica che quella signora di Padova ha detto una stronzata. Non l'ha sentita. Non perde voti. Non l'ha sentita. Poi gliela facciamo risentire se vuole. Cos'è che ha detto la signora di Padova? No, alcuni hanno detto, alcuni hanno scritto stessero a casa loro, così imparano, un'altra volta non ci riproveranno. Questi li condivide, lei li capisce questi qua? Non condivido questo. No. Va bene, grazie. Giornale radio. No, anche giornale radio, sì, giornale radio, pubblicità. Che tempi. Zanzara. Michele Pistoia, vai Michele, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Senti, è l'ora di finirla con questi sbarchi qua. Ma ne morisse 700 al giorno sarei contento io. Perché tanto questi vengano qua, mangiano, beano alle spalle nostre, vengono a rubare, ammazzano. E allora è inutile che debbano venire qua. Ma invece di andarla anche a prendere, mi tocca anche andare a prendere in Libia. Sì. Scusi, lei è una persona reale? Certo. No, scusa, perché adesso cambio registro. Lei è, una, certo. Lei è vivo? Lei. Certo che sono vivo. Come si chiama? Non ho capito. Ricominciamo da zero. 20:01, pardon. Lunedì la Zanzara di 24. Michele da Pistoia. Benvenuta. Certo. Michele da Pistoia. Azzeriamo tutto. Certo. Buonasera, Radio 24. Ciao, Cruciale. Ciao, Parenzo. Michele da Pistoia. Prego, Michele. Che voleva dire? Che ne morisse 700 al giorno ancora. Azzeriamo tutto un attimo. Vediamo, se forse siamo in onda. Vediamo. La parola al coglione, Michele da Pistoia. Prego, coglione. Tutti in casa sua. Coglione io come coglione lei, Parenzo. Lei tutti in casa sua. Ha lasciato il numero di telefono? Certo che l'ho lasciato. Ma che devi fare col numero di telefono di Michele da Pistoia? Che devi fare? Andare dai carabinieri? Che devi andare? Un momento. Le voglio spiegare ai 2 milioni di persone che ci ascoltano una cosa. Aspetta. Di quelli che dico sempre, la morte neanche un cane è un sagura, però è l'ora di finirla, perché qui tanto questi vengono, rubano, stanno e vivono alle spalle nostre. E allora ma che si deve andare a prendere in Libia? porca miseria, poi dopo magari che gli si dà da mangiare, da bere, da dormire lì, no, guarda, questa è la crociera, si mettono anche in crociera da qui avanti. Allora Michele, io non ho capito la tua proposta. Lei la chiama crociera quella che hanno fatto queste sette, no, giusto, adesso mi calmo perché sennò mi incazzo. Pagano per capire, per la crociera, cioè, scusi, crociera. Michele da Pistoia invece di pagare 2-3 mila euro, 5 mila, che siano a casa sua, invece di venire qua, sennò mi incazzo. Scusa, allora guarda, oggi mi incazzo. Michele allora, no, fammi parlare un secondo, vorrei capire una cosa. Cruciani, te lo giuro, oddio, dai, però mamma, sei troppo agitato stasera. No, poi sto zitto, promesso. Sei troppo Michele agitato. Da Pistoia, su. Composto dimmi, l'800 dimmi, 20... Michele da Pistoia, composto l'800 24 0024. L'ho telefonato, ha detto quello che voleva dire, ha lasciato il numero al centralino. Il centralino della radio lo ha richiamato, è entrato in onda. Gli abbiamo fatto notare sobriamente che forse stava un po' esagerando. Abbiamo azzerato tutto, lui ha ricominciato. Quindi Michele da Pistoia, lei è una persona reale, vero? Ma no, non sono reale, sono un fantasma. Come lei allora sarei un fantasma. Un altro che si chiama Claudio, Claudio, magari dico anche il cognome, lurido pidocchio ripulito, ti auguro di tutto il cuore di morire affogato insieme alla tua figlioletta, magari fai una gita in barca con qualche altra merda di parvenu dei tuoi. Io sono notario a questo. Aspetta, Claudio. No, ma no, a me lo dicono, il tuo miserabile stampo, sei soltanto un ridicolo stronzetto in delirio di onnipotenza e con una gran faccia da cazzo. Questo signore si chiama Claudio, già segnalato ovviamente, però voglio dire, Michele, anche Michele da Pistoia. No, ma Michele da Pistoia, questo non mi ha augurato la morte. Michele l'ha augurata ai 700. Ma quelle sono effetti della morte. Beh, come no? Hai detto che vuoi 700 morti al giorno? Ecco, io però sono di quelli che non l'augurano neanche a un cane. Ma è loro di finirla questa gente. Perché questi sono peggio dei cani. Sono peggio dei cani, ecco qui. Sono peggio dei cani. Allora, no, ma io voglio capire una cosa. Tu è meglio che muoiano in mare. Tu ti auguri 700 morti al giorno? Al giorno, po' festa, tappo spumante tutti i giorni da qui avanti. Michele da Pistoia, però io prima di incazzarmi vorrei capire perché non è, siccome non ce n'è solo una di queste telefonate, caro Brenzo, ce ne sono diverse. Ma perché si devono anche andare a prendere là in Libia? Si devono andare, io sarei di quelli che per carità si salvano quando sono nel nostro mare, i nostri pescherecci quando sono nell'acqua internazionale vengono sequestrati. Questi nonostante tutto si vanno anche sì, ma se questi stanno affondando, a parte questi sono affondati lo stesso. Si affondano, ma pagano anche perché sanno che affondano, ma dove vanno? No, sanno che affondano. La mia tesi è che sanno di poter morire, però non è che sperano di affondare, non è che fanno viaggio per affondare, no? Ma gente che hanno i telefoni, i cellulari più evoluti. No, i cellulari non è che ce l'hanno tutti quelli da dentro, ce l'hanno gli scafisti. No, ce l'hanno anche loro. Ma non ce l'hanno loro, sono 700, come fanno ad avere ognuno il satellitare? Che dici, Michele? Ti vuole fare la di me quella gente lì, ma non stanno meglio di te, questo non si può dire che stanno meglio di te, questo non si può dire, perché ma tu non andresti su un barcone e in giro per il Mediterraneo a cercare ventura, non ci andresti, ma non ci andrei perché sono consapevole del fatto che se bocco un barcone del genere muoio. Ho capito, ma si può anche dire che quelli sono talmente disperati e vogliono cercare un'altra vita. Allora perché vengono? Perché si mettono su quel barcone allora? Spiegami. Ma non è si mettono su quel barcone perché pensano di trovare l'America qui in Italia. Beh, anche questo, certamente, anche questo. Sì. Ma qui è un certo. Ma tu sai, ho capito. Tu sei dell'idea, Michele, che questi qua, come disse una volta un leghista, no, Parenzo? Che cosa disse una volta? Una volta disse: vengono qua, c'hanno le Nike, li vedi qua con i. Ma no, io non lo so se c'hanno le Nike, ma sicuramente. Questa gente che viene qui e poi dopo tanto il lavoro non ne trovano perché non hanno voglia. Vabbè, ma queste qua sono le conseguenze di quello che trovano, un altro discorso. Ma che si deve prendere tutta noi la peggio feccia appena, del mondo? Appena hai saputo... Abbiamo anche Michele da Pistoia, non possiamo avere dei migranti? Abbiamo persone che la pensano come Michele da Pistoia. Ma io peccato Parenzo, che io pago le tasse, non come i migranti. Ah, lei paga le tasse. Allora, Michele, quindi ha diritto di dire qualunque cosa. Michele, io voglio capire una cosa. Appena hai saputo di questa notizia, 900, 700 morti, la prima cosa che hai pensato qual è? Hai avuto... Ti sei messo a ridere? No, ho detto pochi. E Don Amanti ne morisse 700 al giorno. Ho capito, benissimo. Ciao, Michele. Così smettano di venire. Ciao. Ciao. Ciao. Stacchiamoci un attimo da questa roba dell'immigrazione, un secondo, perché state per ascoltare una cosa abbastanza, una cosa incredibile. Allora, continua la grande inchiesta della Zanzara sui cognomi, Così sui cognomi, diciamo, sensibili, sui cognomi che urtano la sensibilità di chi guida un comune, dei cittadini. Cioè, uno per esempio non si può chiamare Salvatore Rina, no? Oggi non ti puoi chiamare, detto con tutto il rispetto ovviamente, persone sicuramente oneste, che non farebbero, magari non torcerebbero un capello a nessuno, però insomma ti chiami Salvatore Rina, ragionaci un po', magari cambia cognome, no? Ma non c'è niente di strano se ti chiami Rina, non è colpa tua se un altro Rina ha fatto quello che ha fatto. No, non è colpa tua, sicuramente, no, tu sei una brava persona, eccetera, eccetera. Però c'è un altro che è diventato quello che è diventato, il signor Salvatore Rina, ha detto Totò Rina. Allora, i nostri amici funzionari dei comuni italiani stanno cercando di far cambiare idea a queste persone, in particolare a quelli che si chiamano Salvatore Rina. Sentite quello che è successo in un paese, mi sembra in provincia di Mantova, se non sbaglio, Mantova, Verona, non lo so, comunque sentite. Pronto. Signor Salvatore Rina? Sì. Buonasera, qui il comune. Sì, dimmi. È l'ufficio per il cambiamento dei nomi. Sì, sì. Dobbiamo cambiare il nome. Salvatore Rina va cambiato. Come va cambiato? Bisogna cambiare il nome Rina. Non ci possiamo permettere di avere una persona che si chiama Rina. Perché? Ma scusi, ma Salvatore Rina, lei lo sa chi è? Chi è? Totò Rina. Appunto, Totò Rina. Io mi chiamo Salvatore Rina pure. Appunto, dico, ma lei non si vergogna? Perché mi devo vergognare? Ma scusi, Salvatore Rina, Totò Rina, il capo dei capi, ha ammazzato un sacco di gente. Dobbiamo cambiare il cognome, il comune non vuole questo cognome. Ma che comune è, scusa? È Baleggio sul Mincio. Sì. Le passo il funzionario, aspetti. Sì. Sì, buonasera, il dottor De Franceschi, signorina? Sì. Salve, buonasera. Allora, abbiamo appena istituito la pratica, avremo come nome da proporle Salvatore Imposimato. E perché? Perché Rina, come le ha spiegato il mio dirigente, il dottor De Crux, non è possibile, è un nome che non fa buon lustro al comune, Rina, non va bene? Come? Io... Signor, guardi, amico mio, il dirigente che l'ha chiamata prima e che ha passato ora la chiamata a me, le ha spiegato che abbiamo già istituito la pratica. Quando viene a firmare, il suo nuovo nome sarà Salvatore Imposimato. No, perché io ho il nome di nascita e tengo quello mio, Rina Salvatore, e basta. No, non lo pronunci neanche più, guardi, mi viene la pelle d'oca. E anche i suoi concittadini, i nostri concittadini, è una pratica che abbiamo già istituito. Quando viene in comune a firmarla, il suo nuovo nome, Salvatore, lo lasciamo. Imposimato, però, mettiamo. No. Allora vuole in groia? Come? Possiamo anche mettere in groia, se vuole. Come in groia? Ma scusa un attimo, io porto Rina Salvatore. Non è possibile, perché è un cognome che disturba la quiete pubblica. Ma che cosa disturba? Mi facesse capire. Lei si chiama Rina e il nome Rina capisce bene che evoca stragi, non è possibile. Come stragi? Sì, dai. Scusi, lei conosce Totò Rina, il capo dei capi? Io lo conosco, sì. E allora non è possibile chiamarsi così, bisogna fare un'opera di cambiamento del cognome, questo fa il comune. Domani vengo in comune. Ecco, venga, noi le proponiamo tre cognomi, Imposimato. No, non voglio cognome, io no. Voglio quello mio. Imposimato, in groia oppure anche Di Pietro, se vuole. No, te lo metti tu Di Pietro. Le ripasso il direttore, le ripasso il dirigente. Sì, salve, eccomi qui. Ha fatto tutto col mio collega? No, non ho fatto niente io. Io tengo il mio nome e basta. Ma scusi, ma non è che lei è parente poi, no? No, io non sono parente. Ho capito, ma noi non ci possiamo permettere. Cioè, Salvatore Rina, Totò Rina, è stato un mafioso, no. È un mafioso pazzesco, ma lei non se ne... Domani mattina ti posso trovare in comune? Venga al comune alle 9:30 di mattina. Dove? Alla portineria. Di Francesco sei tu? Sì, sono io. E che piano sei? Al secondo. Al secondo piano vengo domani. Di Francesco. Sì, ma Totò Rina è già. Non si può tenere Totò Rina. Ma lei non si vergogna di chiamarsi Totò Rina? Io? Perché mi devo vergognare? Ma fammi capire. Ma scusi, ma Totò Rina era o non era un mafioso secondo lei? Beh, era un mafioso una volta, ora non è niente. Beh, è in carcere. E che ne so da dov'è? Ma secondo lei chi è? Come lo considera lei Rina, scusi? Rina? A posto. Come a posto? Una brava persona. Ma come una brava persona? Ma come fa a considerare una brava persona? È un super mafioso. E che c'è? Perché io porto il stesso cognome, che fa? Che avete paura? Chissà, mi ammazzo pure io. No! Allora? Ho capito, però bisogna cambiarlo, è meglio cambiarlo. Secondo lei Rina è una brava persona? E me è brava, sì. Cioè, Totò Rina è una brava persona? Sì. Cioè, il capo dei capi? Il capi di capi. Scusi, ma il capo dei capi, il mafioso Totò Rina? Che ci posso fare? Ma perché la mafia, secondo lei, non è una cosa negativa? La mafia? Prima c'erano i soldi quando c'era la mafia. Ah, quando c'era la mafia c'erano i soldi. Sì, ora stiamo morendo tutte di fame, capito? Cioè, meglio la mafia, dice lei. Sì, così ammazzano a tutte e escono i soldi. Vabbè, comunque, guardi, il problema è questo. Il comune ha deciso che questo cognome va cambiato. Non possiamo avere a baleggio sul Mincio una persona che si chiama Rina. E non ce lo possiamo permettere, lo capisce lei? Io devo capire. Guardi che il sindaco vuole fare assolutamente questa cosa, Domani vado da sindaco, allora. Sì, no, come il sindaco? No, venga da me prima, di Francesco. Domani mattina vengo. Ciao. O sei là ora? Sto andando via, non a casa. Sto andando a casa, ma tu neanche di Valleggio tu sai. Io non sono di Valleggio sul Mincio, ma stai scherzando? Di Francesco, secondo piano al comune, ci vediamo domani, ciao. Siete due facce di merda, ovviamente. La Zanzara. Maiali, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Dio, disgraziato, Dio, tanto ciao. Gnappi. Pippe. Allora, non so se per te, molte pippe di Ferrara, non so se per te, caro Parenzo, sia un dramma questa notizia, però potrebbe diventarlo. Bitonci è il sindaco più amato del Veneto. Ma è un sondaggio fatto dal Sole 24 Ore. Non c'è ritorno audio, non sento. No, Bitonci, ti voglio segnalare. Pronto? Che il tuo amico Bitonci, sindaco di Padova, siamo di Paola, in onda, non sento. È il sindaco più amato del Veneto, con oltre il 60% dei consensi. Questo non credo. No, questo credo invece, no. Questo credo. Ma sai che non ho sentito questa parte di trasmissione? Ho capito, sì. No, non l'ho sentito, veramente. Non so cosa è successo. Chi ha fatto questa statistica? No, il Sole 24 Ore, dunque non puoi dire nulla. Chi l'ha fatto? Signori del Sole 24 Ore. Ti assicuro, IPR Marketing, l'amico tuo, come si chiama là? Sì, noto. Pubblicato dal Sole 24 Ore. Allora, Marino, il sindaco di Roma, è all'82esimo posto di gradimento tra i sindaci italiani. Questo sotto credo. 50%. Questo credo. No, bisogna essere oggettivi. Questo credo. E il primo chi sarebbe? Il primo è Nardella. Ma primo è Nardella col 65%. Ma è poi pubblicata sul Sole 24 Ore. Sì, poi c'è De Caro di Bari col 64%, poi Gori di Bergamo col 63%, dunque sono due di centro, tutti e tre di centro. No, ma non mi interessa a me destra sinistra, non è quello il poi punto. Poi c'è, credo che Bitonci sia tipo il settimo assoluto in Italia. Chi è questo? Con il Bitonci, oltre il 60%. Sai che ho già sentito sto cognome? Sì, mio nonno in Carriola. Dove l'ho sentito non mi ricordo. Ci posso un attimo, poi entro le 20:50 te lo dico. Sì, vabbè. Andiamo a Napoli, Salvatore, vai. Salve Cruciani, buonasera. Dimmi. Apparenza manco lo saluto, se no mi attacca subito. Vabbè, adesso salutare, magari si può anche salutare, a me non me ne frega niente, certo, dei saluti, certo. Comunque. Salve Parenzo. Vabbè, dunque. Niente, lo so che non hai bisogno di un avvocato difensore, però io sono d'accordo con te quando dici che gli immigrati vanno disperiti indietro, anche perché in Italia non siamo in grado di accoglierli, visto che stiamo passando anche noi un brutto periodo, sia lavorativo. Vabbè, dopo questa banalità? Vabbè, non è una banalità. Ma totale, assoluta. Poi? Non siamo in grado di accoglierli, vabbè, d'accordo. Tu pensi che non bisogna far entrare nemmeno uno spillo, nemmeno un immigrato? No, vabbè. Ci sono aziende che chiedono immigrati, tra l'altro, ma comunque ci sono. Perché li pagano poco? No, perché gli italiani non vogliono fare certi lavori, c'è anche questo aspetto qua. No, comunque, un numero di immigrati, come no? Penso io che sia così, assolutamente. Vai a guardare nelle pizzerie che fa le pizze oggi. Comunque, la realtà è questa: che in Italia deve entrare solo chi ha un lavoro. Questo io la penso così: bisogna far entrare una quota di persone. Ma poi bisogna controllarli. Noi siamo all'altezza di controllarli, bruciare questi qua. Noi non siamo all'altezza di controllare. Dipende, cioè, alcune volte li controlliamo, altre no. Fermo un attimo che c'è il traffico. Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presento La Zanzara. No! Cioè, allora, ti spiego. Sindaci che ci pigliano per il culo, anzi che pigliano per il culo i cittadini. Cosa succede in Campania, caro Parenzo? Continua la grande inchiesta della Zanzara. Questa volta non è della sera le grandi inchieste, quelle finte, ma è un'inchiesta vera, perché ci sono diversi sindaci i quali che cosa fanno? Non si potrebbero candidare alle regionali perché ha deciso così una legge della regione Campania, sì. Ma invece loro cosa fanno? Si fanno multare, poi ci raccontano che in realtà c'era una multa, non se la sono fatta fare, ma poco cambia, perché invece di pagare la multa si oppongono opponendosi. Che succede? Opponendosi decadono automaticamente e dunque si possono poi candidare tranquillamente alla regione senza che il comune venga commissariato, dunque possono mettere becco ancora nelle cose del comune. Un altro esempio di questa furbizia, di questa furbizia anche un po' levantina se vogliamo, perché bisogna avere della genialità per farsi multare, fare opposizione, decadere e potersi candidare al consiglio regionale. Una vera e propria presa per il culo. Abbiamo chiamato un tizio che si chiama Nunzio Carpentieri, pochi istanti fa proprio, durante un intervallo. Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant'Egidio Monte Albino. Senti. Carpentieri? Sì? Come sta? Sono Cruciani, come va? Non ci capite chi è Cruciani però. Sì, sono Cruciani, Radio 24. Oui, ciao, e come va? Sono Pagani, qua non c'è male. Bello questo trucchetto che vi siete inventati, questo della multa, eh? Vabbè, non è, voglio dire, ma perché non ve la pigliate con chi ha fatto, voglio dire, questa legge elettorale così schifosa che, diciamo, non dà la possibilità ai sindaci? Sì. Che sono, diciamo, gli unici referenti, membri delle comunità. Sì. Dire, quindi... Vabbè, però hanno fatto una legge, lei invece di adeguarsi alla legge ha cercato di aggirarla, anzi l'ha girata. Vabbè, diciamo che io avevo già ricevuto una multa dal mio comando di polizia municipale. Vabbè. C'è la legge che gli dice che io posso fare ricorso. Ne ha approfittato. Ha fatto il furbetto, ha fatto un po' il furbetto, dai, il furbetto italiano. Oh no. Ma non è in questi momenti, in questi casi che i politici sono furbetti, i politici furbetti sono altri. Però Carpentieri, sarà pure vero che sono altri i politici furbetti, però lei ha preso la palla al balzo di una multa che l'avevano fatto, secondo me se l'è fatta fare la multa. Non me la sono fatto fare, no? Non se l'è, sicuro? Non me la sono fatto fare. Crediamoci, c'era sta multa, invece di pagarla ha fatto ricorso. Perché l'ho presa, diciamo, dove c'è il divieto, dove posso parcheggiare solo le auto di polizia. Io sono sindaco e quindi sono anche, diciamo, capo della polizia municipale. Io credo che una multa lì non mi andava fatta. Vabbè, adesso non ci prende pure in giro. Ho preso la palla al balzo. Ah, ecco, appunto. La macchina al balzo ho preso. No, dobbiamo essere sinceri e onesti. Siamo sinceri e onesti, sì. Perché io lo sono e lo sono sempre, anche in altre cose. Questa palla al balzo è perché veramente ho visto una grossa fregatura, quella che i sindaci dei comuni con 5.000 abitanti non possono candidarsi, e questa è una cosa... Però scusi Carpentieri, se la regione ha fatto una regola, uno non può, lei è sindaco di un paese... Io sono rispettoso delle leggi e quant'altro, però la legge mi dà la possibilità di fare contenzioso, e l'ho fatto, non io se segue la legge, non è che faccia cose diverse dalla... Ma per lei poi è sindaco, perché se vuole candidare la regione? È perché credo che oggi, tolto le province, il Senato ormai scomparirà, gli onorevoli deputati sono sempre lontani, i comuni sono stati abbandonati. Sì. Io credo che l'Agro Cino Sarnese debba avere per la prima volta un consigliere regionale che abbia fatto almeno, ecco, qua, che conosce le difficoltà, conosce veramente i problemi e deve fare da collegamento. Non c'è dubbio. Perché io faccio un sacrificio. Come un sacrificio? Perché io sono sindaco ancora per altri 3 anni, io mi tolgo una cosa certa per una cosa incerta. Ma quale sacrificio? Dov'è il sacrificio? Il sacrificio c'è perché io sono e potevo essere ancora sindaco per altri 3 anni. Ho capito, ma lei è il sindaco di un piccolo paese e vuole fare il consigliere regionale con uno stipendio pazzesco. Ancora la mia comunità. comunità, le altre comunità. Perché sì, ma lei inizia male, ma no, questo qua. Non abbiamo più risorse. Ma questo è legittimo, ma lei inizia male perché inizia con un trucco. Inizia con un trucco, assolutamente. Con una piccola truffa, una piccola truffa. Ma la legge me lo consente di fare. E lei si rende conto che per fare questa roba, per candidarsi, lei ha girato la legge. Ma io non ho girato la legge, io non ho girato. E come no? Ha fatto un trucchetto, dai, un mago Udini. Forse hanno fatto qualcosa in Regione Campania, i consigli regionali, per evitare, diciamo, di dare la possibilità a un sindaco di potersi candidare. Boh, adesso so così, perché so così cattivi coi sindaci? Forse abbiamo qualche consenso ancora, forse siamo i veri riferimenti dei referenti di intere comunità, forse siamo quelli là che... Sindaco, questa storia delle multe è veramente incredibile. Il Mattino ha fatto ha messo le vostre foto come fosse dei ricercati, ma perché non lo siamo, quindi la cosa non ci spaventa minimamente. Comunque, bello il trucco. Dobbiamo essere persone oneste. Sì, diciamo che siete partiti. Grazie mille, alla prossima, grazie. Arrivederci, amico mio, arrivederci. Non ci capite chi è Cruciani, però. Allora, caro Parenzo, voglio fare un esperimento incredibile. Questi sindaci hanno veramente la faccia tosta. Questo in realtà ha ammesso alla fine di avere fatto un trucco, e almeno non ha avuto, come dire, almeno è stato sincero in questo, no? Io trovo che queste cose possono accadere solamente in Italia. Cioè, solo in Italia può accadere che uno che è sindaco, per candidarsi, c'è anche una presa di culo nei confronti dei cittadini che prendono le multe, poi questa roba qui. Per candidarsi alla regione si fa fare la multa dai vigili urbani. Fa opposizione, cioè fa ricorso per la multa. Dopodiché il sindaco non può andare contro il comune, dunque deve... Anche sta cosa è assurda, che il sindaco non può fare... Decade se si mette contro il comune. Ma che vuol dire pure questa cosa? Questa può avere una logica. Ma perché non ha nessuna logica. Tu sindaco che... Comunque, ti metti contro te stesso. Cosa è successo in Russia? Adesso passiamo a un'altra cosa. Fino a pochi giorni fa, non so se sia ancora vero, la versione russa di Siri, sai la roba di Siri sull'iPhone? Sì. Sistema sull'iPhone. No, rispondeva in maniera negativa ogni volta che riconosceva la parola gay, la parola lesbica. In un messaggio, cioè, tu facevi lesbica, gay, e c'erano delle risposte negative. Cioè, se tu chiedevi è normale il matrimonio gay, credo che questo sentimento debba essere considerato negativo, così rispondeva la versione russa. Ci sono state delle polemiche. Io ho fatto un esperimento, ti assicuro che è abbastanza incredibile. Adesso vediamo se si sente. Sì. Alla parola lesbica, aspetta, sì. aspetta. Lesbica. Non è carino da parte tua. Ma come non è carino da parte tua? Ma perché? Prova Bitonci, fammi provare un attimo. No, Bitonci ti darà tutte le soluzioni su Google. Ma guarda lesbica. Prova però Bitonci. Perché non è carino? È bellissima essere lesbica. Prova Bitonci. Le lesbiche dovrebbero incazzarsi con Siri italiano. Aspetta, guarda, io riprovo. Bitonci. No. Lesbica. Non è carino da parte tua. Ancora non è cattuia, dice. Vabbè, che non è un italiano. Prova Bitonci, veramente, solo per curiosità. No, ma smetti con questo Bitonci. Vabbè, d'accordo. Provalo per curiosità. Bitonci. Ok, ecco cosa ho trovato su internet su Bitonto. Ma come? No, Bitonto, okay. Bitonto non c'è. Ok. Ah no, Bitonto. Non lo riconosce. Vediamo se riconosce Bitonci. Sì. Bitonci, sindaco di Padova. Ecco cosa ho trovato cercando Bitonto, c'è sindaco di Padova su internet. Ma no, Bitonto, ma sono io che lo pronuncio male. Adesso, torniamo sul lesbica. Sì. Lesbica. Non è carino da parte tua. Ma è che perché? Ma perché è carino? Pubblicità. Viva i fraci! Viva i fraci! Pubblicità. Borse in diretta. Buonasera, proseguono positive le borse a New York. Wall Street, Dow Jones sale in questo momento dell'1,16%, mentre il Nasdaq guadagna l'1,20%. Dopo due sedute in negativo in Europa, nonostante restino immutate le preoccupazioni sul fronte della Grecia, Atene ha chiuso a -0,11%, le borse hanno ripreso slancio e hanno chiuso positive. Francoforte ha guadagnato l'1,74%, Parigi è salita dello 0,86%, Londra dello 0,82%. A Milano il FTSE MIB ha fatto segnare un +1,25%, il Fuzio Share un +1,19%. A Piazza Affari bene in particolare Buzzi +4,63% grazie a un report positivo di UBS. Sono andate bene anche le banche, BPM ha chiuso +4,53%, mentre Unicredit, sempre più vicina a chiudere l'accordo con Santander su Pioneer, ha guadagnato il 3,59%. Dai tre migliori ai tre peggiori, dall'altra parte del listino maglia nera troviamo oggi CNH in ribasso dell'1,68%, risentendo dello stacco cedola. seguono Campari, ha perso l'1,33%, e Tozze, che è andata sotto dello 0,77%. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso a 141 punti base col tasso all'1,47%, il differenziale della Spagna si attesta a 138 punti base con rendimento dei bonus all'1,45%. I cambi euro su dollaro a 1,0730 ed è tutto. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Non è carino da parte tua. Cioè, è impressionante questa cosa, eh? Cioè, oggettivamente impressionante. Cioè, perché i signori della Apple che gestiscono, hanno inventato questa cosa che si chiama Siri, quando io pronuncio, vediamo Frocio per esempio, no? Frocio, pederasta, Frocio, aspetta, aspetta. Frocio. Ecco cosa ho trovato cercando Frocio su internet. Vabbè, questo è normale, no? Io voglio riprovare, perché lesbica mi prova dice? Prova Salvini un no, attimo. Ma che c'entra? Salvini esce tutto. Ma magari. Ma no, no, Bitonzo, che ne so, ad esempio. Omosessuale. Non è carino da parte tua. Cosa? Ma perché? Aspetta, aspetta. Omosessuale. Com'è? Omosessuale. Dai. Controllo. No, controllo. Non ho trovato controllo. Organizzazioni lesbiche, gay e bisessuali, mi dispiace. Non è carino da parte tua. Ma che vuol dire non è carino? No, prova Salvini, ultimo, ti prego. Prova. No, no, ma Salvini è uscito a tutte. Ma non lo so, prova per curiosità. Salvini. Quale Salvini? Beh, quale Salvini? Ah, c'è scritto Salvini, uno Salvini e l'altro Matteo Salvini. Quale? Matteo Salvini, Lega Nord. Quale? Ma no, quale? Matteo Salvini? Quello con le felpe! Quello con le felpe! Vabbè ragazzi, dai, Anna Maria da Torino. Anna Maria. Buonasera. Dimmi. Vorrei sapere se è vera la notizia che ho sentito stanotte, che in Sudafrica ci sono gravissimi problemi per gli immigrati, sì, che addirittura li bruciano vivi gli Zulu. No, non bruciano vivo, non bruciano vivo nessuno in Sudafrica, guardi, te posso assicurare. Non bruciano vivo nessuno. Non l'ho sognato. Ma l'ha non detto. Ha detto non bruciano vivo nessun Zulu. Cioè, non lo Zulu, gli Zulu bruciano gli immigrati perché dicono gli che Zulu tolgono. Bruciano gli immigrati. Sarà successo qualche episodio di cronaca, a parte che... Ma che c'è una grande, come dire, un grande problema per cui paesi confinanti cercano di richiamare i loro cittadini che sono emigrati in Sudafrica. Volevo sapere se questa notizia aveva un fondamento, l'ho sentita per radio comunque. Anna Maria, controllerò. Allora poi che vuole aggiungere, qualcos'altro? No, volevo solo dire che mi sembra eccessivo tutto. Ah no, la maleducazione della signora che ce l'aveva con la... Con chi? Con Parenzo, Luisa? Peretti, si chiama Peretti. Peretti. Come si chiama? Ma che ne so, io so il nome, chi è? Un'ascoltatrice, chi è? No, quella signora che faceva la televisione, che ce l'aveva... Ah, la Parietti, la Parietti che ce l'aveva con la Sant'Anchè. Sì, mi scusi. Mi sembra veramente antidemocratico, la signora Sant'Anchè è stata eletta, ha diritto di parlare, certo. E pare che tutti abbiano diritto di parlare. Va bene, grazie Anna Maria, ma lei criticava quello che ha detto, infatti, non è che ha detto che non può parlare. Da parte tua. Allora, grande ritorno alla Zanzara in collegamento dagli Stati Uniti, Edward Luttwak, professore, come va? Come va? Si tira avanti la carretta. Adesso non esageriamo, adesso non è mica come stare sulla carretta degli immigrati, No, esatto. Te credo. Niente da ridere. No, niente da ridere. È molto triste vedere come le buone intenzioni portano a questi terribili risultati. Ma chi sarebbero? La buona intenzione era quando i primissimi barconi sono arrivati, subito dopo la caduta di Gaddafi, e invece di chiamarli immigrati clandestini, erano chiamati ragazzi. Sì. Okay, ragazzi. Infatti erano giovani uomini che volevano venire in Europa per migliorare il loro standard di vita. Sì. Questo però, lamentevolmente, non è permesso dalle regole, perché le regole impongono aiuto ai profughi di guerra, sì, rifugiati politici, sì, ma non, no, il migrante che vuole migliorare le sue condizioni di vita deve farlo in maniera legale. Sì. E averli accettati, non averli processati, non averli, non nel senso di portarli in corte, non averli esaminati, interrogati per determinare chi era profugo politico, chi era venuto semplicemente per ragioni economiche, avere non fatto questo all'inizio è sì, stato l'inizio di tutta questa cosa. Cioè, lei mi sta dicendo, professore, che quelli che vengono e che vogliono venire trascinati dalla fame, dalle condizioni economiche, in realtà non possono venire. In tutto il mondo si fa questa distinzione. Chi viene, chi è un rifugiato di guerra, un profugo, uno che scappa dalla persecuzione o dall'eccidio, c'è l'obbligo di dargli asilo. Una volta che si è confermato, sì, che infatti viene da là. Sì. Ma non c'è nessun obbligo, sì, di accettare persone che vengono per migliorare le loro condizioni di vita. Ho capito. In che la senso ragione è molto obbligo? Semplice, è una questione di numeri. Perché altrimenti saremmo invasi, diciamo, no? Tutto il mondo ci sarebbe invasi. Sì, tutto il mondo non lo so, ma in Africa occidentale da solo ci sono perlomeno 100 milioni di persone che vorrebbero migliorare il loro standard di vita entrando in Europa, in Italia. Di fronte a questi numeri, gli stati organizzati non fanno entrare la gente. Se la gente entra comunque, allora vengono esaminati uno per uno e quelli che sono rifugiati economici sono rispediti a casa. Però professore, io voglio, restiamo a quello che è successo l'altro giorno. In Italia torna d'attualità una cosa che lei diceva qui alla Zanzara, soprattutto inascoltato, devo dire la verità, inascoltato qualche anno fa, già da qualche anno, cioè dire adesso si comincia a capire, alcuni cominciano a capire, addirittura leggo una cosa di Renzi adesso, interventi mirati contro gli scafisti. Sono cose che, devo dire la verità, il professor Luttwak qui alla Zanzara diceva diversi anni fa. Cioè sì, bisogna, ma questo era un obbligo di proteggere questi poveretti dai pericoli del naufragio, della morte, appunto, facendo, quando... perlustrando le coste libiche, sì, quando vedi un barcone lo distruggi. Naturalmente è un barcone vuoto, con nessuno a bordo, ma che gli scafisti stanno preparando. Ma non c'è, non la sicurezza. Gente a bordo, non c'è la sicurezza. Distruggi che... il barcone, sì, uno, e due, cosa importantissima. Da mesi si sa, da molti mesi si sa, che le autorità turche allegramente permettono gente dal porto di Mersin, in sud-est Turchia, di imbarcarsi su barche che vanno a finire in Libia o direttamente in Italia. Allora, forse l'idea del presidente turco Erdogan di islamizzare l'Europa con questo traffico, ma è completamente illegale ed è assurdo che lo Stato turco, pretende di essere uno Stato civile organizzato, addirittura permetta queste cose di entrare nell'Unione Europea, che la Turkish Airlines vola tranquillamente in Italia ogni giorno, è permessa di atterrare, mentre le autorità turche, le autorità turche sono complicite nell'uscita dal porto di Mersin. Professore, senta, io però... Il porto di Mersin è la via di uscita di un grande numero di persone che vanno a finire a morire in mare o essere salvati e arrivare a Lampedusa. Questo lo fanno i turchi, va bene? I turchi non è una, è uno Stato organizzato con cui si può trattare, semplicemente fargli pagare un prezzo, dire: ragazzi, se voi fate questo, voi non avete diritto di accesso all'Italia per vie legali. Quindi niente Turkish Airlines fino a che il porto di Mersin viene controllato. Ma noi non abbiamo le palle per fare questi discorsi. Senta, non si tratta, questa è una semplicissima reciprocità, è la cosa più semplice. Ma non c'è niente di più semplice come dire a Turkish Airlines che per ragioni tecniche non possono atterrare. Addirittura. Fino a che il porto di Mersin non viene usato dai turchi per mandare questa gente arrivare sulle coste italiane. Senta professore, una cosa molto semplice che non riguarda la vicenda degli immigrati, ma secondo lei fra poco in Italia ci sarà l'Expo, no? Servono ancora queste cose? Cioè, e poi l'Italia farà una brutta figura perché arriviamo sempre all'ultimo. Guarda, non sono un esperto di fiere internazionali. Vedo che i governi che vogliono farsi pubblicità lo fanno. Sì. Come i cinesi hanno fatto la grande Expo di Shanghai e l'hanno resa, hanno fatto di tutto, per esempio hanno portato ogni giorno migliaia di persone, venivano portate in autobus gratis per fare folla e così via. Questa è una decisione governativa. Se tu vuoi usare l'Expo come strumento di pubbliche relazioni, per esempio in Kazakhstan, il prossimo Expo credo è in Astana. Kazakhstan è remoto, non è mica Milano, non c'è molta circolazione, non c'è traffico. Tu fai un Expo a Astana per portare gente a guardare il Kazakhstan, venire a vedere, forse faranno altre cose. Quindi se l'Italia sarebbe il Kazakhstan non c'è da discutere che l'Expo è una gran cosa. Però l'Italia non è il Kazakhstan. Visto il fatto che Milano è una città visitatissima, è super congestionato. Meglio. Non so esattamente la logica di questo, ma ripeto, non sono un esperto. Senti, io non ho capito. Secondo lei, in Italia, in tutti questi anni, tornando alla vicenda dei barconi, c'è stato troppo buonismo? Che è successo? Cioè, la sinistra italiana, Salvini oggi dice delle cose, alcuni gli danno dello sciacallo, no? A Salvini. Non lei, lo so, guarda. Lei conosce Salvini? Lei sa chi è Salvini? Mi hai fatto la cortesia di ricordare che era sul tuo programma che io ho detto che per proteggere i poveretti dai pericoli del mare c'era l'obbligo di perlustrare le coste libiche. Assolutamente. Vedere questi barconi che non sono piccoli e si può perlustrare oggi con i non pilotati in maniera economica. Tu vedi un barcone e prima che loro possano caricarlo di gente, arrivi e distruggi il barcone. E vabbè. Questo crea un disincentivo ai trafficanti. E perché non l'abbiamo fatto fino adesso? No, l'hanno fatto prima di tutto perché c'era una confusione mentale all'inizio. Nonostante che l'Italia è membro del gruppo Schengen, è un obbligo, ha l'obbligo di controllare le proprie frontiere. Vabbè. Obbligo. E all'inizio, quando venivano la gente, venivano chiamati ragazzi. Ragazzi, non clandestini, non gente che venivano senza carte, eccetera. Erano illegali. Il momento che dichiarano che possono provare che vengono da sono profughi di persecuzioni e così via, naturalmente hanno un altro status, hanno la lista. Ma sono pochi questi qua? Asilo politico. Ma la maggior parte di queste persone non vengono affatto da zone di conflitto. Ah, ecco. Beh, bisogna vedere, dipende, quelli che vengono ma bisogna appunto vedere, non semplicemente lasciarli entrare. E poi c'è stata la cosa gravissima, intanto li accogli, li metti al caldo, al sicuro. Il Papa è gravissimo, è andato a Lampedusa e ha fatto un discorso che è stato ripetuto migliaia di volte in Africa, come un invito, venite fratelli, li accogliamo. Loro hanno ascoltato il Papa e stanno venendo. Dunque quindi la colpa è del Papa, irresponsabilità, pura irresponsabilità. La colpa, dunque, uno dei responsabili di questa situazione è il Papa. No, non è il Papa personalmente, è tutta una confusione mentale. Lei ha detto il Papa. Fra essere legali, o si segue la legge o non si segue la legge. La legge è molto chiara. D'accordo, però, tutto per il profugo, niente per il migrante economico. Allora, benissimo, professore, allora diciamo la verità. Questi 700-900 morti, quelli che sono, una parte di responsabilità ce l'ha pure la Santa Sede. Perché quando il Papa va a Lampedusa e dice «No, fratelli, potete venire, fratelli!» Non potete, dai. Venite, no, siete... qualche responsabilità ce l'avrà pure sto Papa, o no? C'è tutti in queste cose, come sai, siamo tutti responsabili. Per esempio, io sul tuo programma ho avvisato, ma avrei potuto fare molto di più. L'articolo non l'ho scritto, io nel mio piccolissimo, siamo tutti responsabili. Però adesso basta, adesso i barconi devono essere interdetti, devono essere fisicamente interdetti, una cosa altamente fattibile. Uno e due, il porto di Mersin, da cui vengono molta gente. La Turchia. O i turchi lo chiudono o controllano quel porto. Sì. se continuano a fare un porto anarchico e mersi, non hanno diritto di arrivare in Europa. Va bene, va bene. Loro compagnie aeree e così via. Grazie professore, grazie. Prego. Grazie. Dove andiamo qui? Andiamo a Cristian, provincia di Padova, dai, forza, Cristian. Sì, ciao, volevo dire una cosa riguardo la trasmissione di questa sera. Sì. Secondo me avete dato troppo spazio a un insieme di elementi che ha... Cioè, stavo pensando, immaginate un turista che per caso accende la radio e ascolta quello che hanno detto specialmente i tre personaggi, la mia concittadina di Padova e quello di Venezia. Ragazzi, eccetera, è quello eccetera. Che passa il commento, la gente la pensa così, è una parte non della gente. No, gente, una parte sarebbe, piccolo, grande, non lo so, da la pensa no. In quel modo e dunque si dà voce anche a quelle persone lì. Dunque non mi rompete le scatole con questa roba qua, dai. Dove andiamo? Andiamo a da nessuna parte perché dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Si tira avanti la carretta. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non ci capite chi è Cruciani, però. Radio 24. La passione si sente.